Salva Danaio di Deborah Rosciani. Inizio settimana a tutti da Deborah Rosciani, bentrovati a Salva Danaio. Allora, intanto cominciamo con il dire che le vacanze finalmente stanno arrivando, anzi molti di voi saranno anche già partiti, qualcuno per soddisfare le esigenze di molte aziende ma anche per risparmiare qualcosa e quindi non andare in stagione pienissima, le stanno facendo appunto le ferie in questo periodo. Per chi ha scelto delle mete all'estero si starà magari interrogando su quanto gli costerà telefonare, ma se vi fosse sfuggita la buona notizia dovete sapere che le cosiddette tariffe in roaming si sono ridotte ulteriormente dallo scorso 1 luglio, un taglio che interviene per il terzo anno di seguito. Per chi chiama si passa da 39 a 35 centesimi al minuto e per chi riceve da 15 a 11 centesimi. Diminuiscono anche le tariffe per chi utilizza internet dal proprio cellulare da 80 a 50 centesimi per megabyte scaricato. E quindi questa è una questione importante da monitorare, appunto proprio le tariffe degli operatori legati all'uso di internet all'estero, visto che ormai quasi più nessuno viaggia con un cellulare normale, ma siamo quasi tutti dotati più o meno di BlackBerry, smartphone, che sono appunto quegli strumenti di nuovissima generazione che consentono, oltre che a fare delle telefonate normali, anche l'accesso di internet dal cellulare. Quindi è molto importante partire bene informati sui prezzi previsti dal proprio piano tariffario, non esagerare ovviamente con l'uso del telefono, ma bisogna tener conto che ci possono anche essere delle situazioni di necessità che richiedono un uso intensivo del cellulare, per cui è bene partire con una certa documentazione di tutte queste notizie. Con chi ne parliamo questa mattina, anche per capire come orientarsi nelle numerose offerte che gli operatori hanno lanciato di recente per attirare naturalmente soprattutto la clientela che viaggiando molto magari fa un largo utilizzo del cellulare all'estero. Questa mattina parliamo di tutto questo, soprattutto soffermandoci sulle novità arrivate, visto che sono buone notizie, dal 1 luglio, con i nostri ospiti Sergio Del Grosso, funzionario della Direzione Tutela dei Consumatori dell'Agicom e l'autorità garante delle comunicazioni. Dottor Del Grosso, buongiorno, benvenuto a Salva Danaio. E grazie anche a Marco Bulfon, il nostro uomo dell'Associazione dei Consumatori, l'esperto di tariffe per altro consumo. Bulfon, buongiorno, bentornato a Salva Danaio. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. 800 24 00 24, questo è il numero verde che vi permette come sempre di inviarci di telefonarci per farci le vostre domande. In alternativa, se ce le volete inviare, potete utilizzare l'SMS al 349 238 6666, oppure scriverci una mail all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Vediamo che cosa sta accadendo in borsa questa mattina con le notizie che avete sentito anche nel giornale radio, che stanno caratterizzando e movimentando la seduta. C'è appunto questa attesa e questo nervosismo anche intorno all'assenza di un accordo sull'innalzamento del plafond del debito americano. Ieri gli esponenti appunto del congresso statunitense hanno tentato nuovamente di trovare un'intesa senza successo e naturalmente il nervosismo si trasferisce in borsa. Stamattina già si sono visti di nuovo dei cali sulle piazze asiatiche, la borsa di Shanghai ha chiuso con un calo del 2,96%, la borsa di Hong Kong ha perso il 3%, Tokyo ha perso un po' meno, lo 0,81%. È partita male anche la seduta in Europa, adesso c'è una schiarita, un miglioramento, Francoforte e Londra sono sulla parità, Parigi perde nello 0,29% e Milano perde oltre un punto. Perché? Perché Milano, come sapete, ha una larga esposizione nel settore bancario, i titoli bancari la settimana scorsa dopo il lunedì nero hanno ripreso a correre nella seconda parte della settimana e oggi, anche complice la scusa del mancato accordo al congresso americano, gli investitori passano l'incasso e molti titoli perdono infatti quasi il 5%. Intesa San Paolo adesso perde questa soglia, Banco Popolare meno 4,84, Bibanca meno 4,78, Popolare di Milano meno 4,75. C'è da dire che influisce in termini negativi anche l'ennesimo intervento della agenzia di rating Moody's sul debito della Grecia. Praticamente c'è stato stamattina un taglio secco di 3 livelli di rating sul debito a lungo termine, quindi siamo ad un passo dal default, come se il mercato ormai immaginasse qualcosa di diverso, visto anche il maxi intervento fatto dalle organizzazioni europee e dal Fondo Monetario la settimana scorsa proprio per scongiurarlo, ma di fatto è un intervento fatto proprio perché la Grecia è ormai tecnicamente in bancarotta. Quindi anche su questa tensione nuova che arriva dalla Grecia, i titoli bancari italiani perdono perdono parecchio terreno. Anche Fondiaria perde il 4,51, Monte dei Paschi meno 3,72, Generali ed Unicredit in calo del 2,7%, storia a parte per Mediaset che perde il 2,67, domani dovrebbe sganciare il quanto stabilito, appunto oltre 500 milioni di euro appunto per Acira, il gruppo appunto di, editoriale di Carlo De Benedetti, appunto per la famosa sentenza del lodo Mondadori. In evidenza Campari, più 2 Fiat Industrial, più 1,61% in attesa dei risultati, Mediobanca più 1,52%, Saipem più 1,45%, sotto i riflettori un po' anche Bulgari, perché dai fondi americani sono arrivate delle contestazioni nei confronti dell'offerta pubblica di acquisto appunto lanciata da Elvemash nelle scorse settimane sul colosso del lusso italiano. E poi quali altre storie raccontare? Ce ne sono poche. Raccontiamo che lo spread fra BTP e Bund, quindi fra il titolo decennale italiano e il paritetico tedesco, viaggia sui 266 punti base in un mercato appunto anche obbligazionario preoccupato per gli effetti di un nuovo piano di salvataggio della Grecia. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi. Pronti per andare in ferie? Per chi ha scelto di andare all'estero dovrà anche farsi un punto della situazione sull'utilizzo del cellulare a seconda del paese appunto che sceglierà. Dal 1 luglio tariffe in roaming in calo. Non mi chiamare da domani perché non sarò in Italia. Guarda che stai spendendo tu perché mi trovo all'estero. Ma paghi tu o pago io? Forse paghiamo tutti e due. Inizieranno così molte delle telefonate degli italiani da un luogo di vacanza all'altro nelle prossime settimane. Tra le voci di spesa di cui tenere conto con l'arrivo delle ferie, infatti, oltre a trasporti, vitto, pernottamenti, eccetera, c'è anche quella dei costi del telefonino, che rischia di riservare amare sorprese a chi decide di trascorrere le ferie oltre confine, colpa delle tariffe previste per il roaming, il sistema che si attiva quando in un paese straniero le chiamate devono appoggiarsi alle reti di altre compagnie. Questi prezzi, spesso spropositati, non piacciono però all'Unione Europea, che già da 2 anni cerca di tenerli sotto controllo. Dal 1 luglio 2011 sono scesi ulteriormente i limiti massimi consentiti. Per chi chiama si passa da 39 a 35 centesimi al minuto e per chi riceve da 15 a 11 centesimi. E diminuiscono anche le tariffe per chi utilizza internet dal proprio cellulare per cercare un'indicazione stradale, soddisfare qualche curiosità turistica o semplicemente dare uno sguardo all'email. Si passa in questi casi da 80 a 50 centesimi per megabyte scaricato. Una notizia non da poco, visto il diffondersi a macchia d'olio degli smartphone. Bruxelles prevede poi ulteriori riduzioni nei prossimi anni, con l'obiettivo di aumentare la concorrenza nei servizi di roaming, rendendo più facile, per chi si muove da un paese all'altro, scegliere di volta in volta l'offerta più conveniente, mantenendo invariati il numero telefonico e il proprio contratto. Nel frattempo, però, per evitare brutte sorprese al ritorno, è sempre bene partire ben informati sui prezzi previsti dal proprio piano tariffario. Allora, tra l'altro vi segnalo che già molti giornali in questi giorni hanno fatto un'attenta analisi delle offerte di mercato praticate in questo frangente dalle più grandi compagnie italiane. Vi segnalo un'inchiesta di Repubblica, addirittura di domenica 12 giugno, ma ancora più fresca è quella pubblicata stamattina dalla Stampa: tariffe più snelle ai turisti del web, nuovi prezzi per clienti all'estero, i servizi di roaming quando si va in vacanza. Per cui ci stiamo scopiazzando le inchieste in questo periodo, ma da naturalmente non potevamo anche noi non occuparci di questo tema. Allora, volevo subito coinvolgere il dottor Sergio Del Grosso, funzionario della Direzione Tutela dei Consumatori della GCOM, l'autorità garante delle comunicazioni, precisando ai nostri ascoltatori, dottor Del Grosso, che queste nuove tariffe roaming, appunto in abbassamento, in riduzione dal 1 luglio di quest'anno, dicevamo anche prima, è il terzo calo per il terzo anno consecutivo appunto che interviene, sono tariffe ridotte, nel senso che l'Europa ha stabilito i tetti massimi delle tariffe in roaming, e detto questo non è che poi gli operatori non possano praticare anche qualcosa di meglio sul mercato, giusto? Per farsi concorrenza ovviamente possono migliorare i tetti stabiliti dalla Commissione, ma diciamo che questo è un trend ovviamente in discesa dei prezzi delle comunicazioni che si sta verificando appunto negli ultimi anni in Europa, ma quello che è più importante forse è anche il sistema delle tutele, no? A tutela dei consumatori, le varie procedure che sono state poste in essere per informare meglio i consumatori quando si trovano all'estero, cioè l'SMS per esempio che arriva appena si atterra sul territorio straniero in Europa, che informa del piano tariffario, dei nuovi prezzi che vengono applicati quando si arriva appunto all'estero, oppure, cosa ancora più importante, forse il tetto per evitare il cosiddetto bill shock al traffico dati, come diceva nel servizio da voi realizzato, insomma, che quando si va a consultare la posta elettronica o si naviga all'estero, adesso c'è un tetto di 50 euro appunto che l'operatore fissa stabilmente al fine di evitare così che l'utente possa sforare e, una volta tornato nel proprio paese, in Italia per esempio, trovarsi una bolletta scioccante. Appunto, il bill shock, infatti, come diceva. Allora, quello che va anche ricordato è che non è che così la Commissione europea, gli organismi europei una mattina si alzano e dicono deliberiamo appunto sulla tariffazione degli operatori delle telecomunicazioni per andare all'estero. Si va, come per tutti gli altri settori, quello finanziario e in tanti altri che abbiamo toccato più volte a Salvadanaio, verso un'armonizzazione appunto delle regole europee che riguardano anche appunto l'attività degli operatori delle telecomunicazioni. Questo roaming internazionale è molto meno caro del passato, e allora questa eurotariffa, perché poi ho visto che così è stata battezzata, rotor del grosso, da che disciplina legislativa è stata introdotta, quando e come è stata appunto recepita in Italia? Ma dunque, ci sono state una serie di direttive, ovviamente, recepite a vari livelli appunto anche in Italia, ce ne sono altre già in preparazione, come per esempio che sono in via di ricevimento, come per esempio quella che stabilisce per esempio la migrazione in un solo giorno, no? Da un operatore all'altro. In questi giorni proprio il Ministero sta organizzando il recepimento delle direttive 136 e 140 della Commissione europea, che stabilisce un ulteriore, per esempio, numero di tutele per il consumatore proprio in questo settore. Diciamo che questo è l'ultimo stadio. Dal 1 luglio 2011, come ha detto nel servizio, c'è un nuovo livello delle tariffe che saranno in vigore fino al 30 giugno del 2012, e poi interverranno ovviamente altre direttive che dovranno essere recepite dal governo italiano, insomma. Tra l'altro, no, sì, avevo spento il microfono, dottor Del Grosso, io proprio tecnologicamente stamattina un disastro. No, allora, quello che volevo anche ricordare è che quindi dal prossimo anno, lei l'ho già annunciato, queste che sono state fissate al 1 luglio di quest'anno saranno in vigore fino al 30 giugno dell'anno prossimo, poi ci sarà un'ulteriore riduzione fino a quando arriverà il magico anno in cui tutte le tariffe sostanzialmente saranno uguali in tutta Europa. Qual è questa scadenza? Sì, ma la scadenza è... esattamente il 2015 mi sembra l'obiettivo di Bruxelles, sì. Sì, dovrebbe essere il 2015, poi a seconda anche di come verranno recepite queste successive appunto direttive, quindi è ancora un quadro diciamo in evoluzione, ma comunque sempre a vantaggio del consumatore, sia dal lato economico che dal lato delle tutele, appunto per evitare sorprese nell'ambito della propria fattura, diciamo. Allora, Marco Bulfon, esperto di tariffe per altro consumo, l'obiettivo di Bruxelles, dicevamo con il dottor Del Grosso, è azzerare le differenze tra tariffe in roaming e tariffe nazionali entro il 2015. Molto movimento fra gli operatori, sia per recepire appunto le novità tariffarie in vigore dal 1 luglio, ma anche naturalmente per proporre qualcosa di meglio ai propri clienti e magari per strapparne altra clientela alle altre compagnie. In questo settore, se non ho capito male, in ogni caso noi viaggiavamo come al solito, come per le banche in altri comparti, con le tariffe più care d'Europa. Anche questa volta, anche in questo caso, non ci siamo fatti mancare appunto l'appuntamento con il peggior primato europeo. È ancora così? Come state notando il movimento fra gli operatori per naturalmente rendere la propria offerta sempre più appetibile? Bulfon. Ma in questo momento effettivamente le cose si stanno molto modificando. Il fatto che l'Unione Europea sia intervenuto sul mercato già da 3 anni ha comportato che ci fosse un certo adeguamento da parte degli operatori già da alcuni anni. Adesso che comincia a diventare sempre più diffuso l'utilizzo del telefonino anche per navigare su internet, si cominciano anche a trovare delle offerte piuttosto interessanti anche per quanto riguarda la navigazione, anche se in questo momento i limiti imposti dall'Unione Europea non riguardano proprio la tariffa al consumo della navigazione internet. Devo dire, da questo punto di vista, mentre per quanto riguarda le telefonate, quindi il traffico voce o SMS, i vincoli sono proprio delle tariffe massime, l'Unione Europea sta trattando i gestori di telefonia come se fossero dei notai in Italia in questo momento. Devono prendere ad adeguarsi e basta? Cioè ci sono dei limiti massimi e quelle non possono e quelle tariffe non possono essere superate. Ma perché l'ho detto con questo tono un po' polemico? Devo dire la verità, dal nostro punto, cioè per chi crede nel mercato, il fatto che ad un certo punto un'autorità pubblica debba intervenire per stabilire delle tariffe massime che il mercato non si sa dare, è una sconfitta per il mercato, dal nostro punto di vista, cioè dovrebbe essere il mercato stesso a darsi di queste regole. Evidentemente non è stato capace di farlo e questo è un brutto segnale. Il mercato europeo è piuttosto giovane. Non è soltanto una questione di mercato europeo, certi problemi ci sono anche all'interno degli stessi mercati. Naturalmente l'Unione Europea interviene a livello europeo, però quando si pone il problema di come gli operatori di diverse nazioni si mettono d'accordo per stabilire come far passare una telefonata attraverso le proprie reti, lì sta intervenendo sul fatto che loro fanno accordi un po' stravaganti, per cui gli impone dei limiti. Abbiamo capito chiaramente, ma quindi stamattina bisognava coinvolgere anche l'autorità garante del mercato. Detto questo, però, Buffon, almeno c'è questa spinta europea che poi appunto non produca, nel senso che spinga verso risultati che si dovrebbero produrre in maniera automatica in un mercato appunto concorrenziale pienamente funzionante. Questo è un peccato, però non un'ennesima occasione mancata, però di fatto almeno questa spinta c'è e le tariffe si stanno abbassando, quindi con piena soddisfazione dei consumatori o no? Certo, assolutamente sì, e devo dire, per certi aspetti oggi si comincia a vedere qualcosa anche sul versante della navigazione internet, per cui si cominciano a vedere anche tariffe che consentono di pagare un tot al giorno, comunque un plafond prestabilito, e sulla base di quel plafond si ha a disposizione un certo traffico di navigazione internet, il che è sicuramente molto positivo. Devo dire che però quelle tariffe lì ancora sono piuttosto alte, mi sembra, almeno a giudicare insomma dalle comparazioni fatte da alcuni colleghi su alcuni giornali in questi giorni. Si può andare verso un ulteriore abbassamento significativo in questo settore, secondo lei? Poi magari chiedo anche a Del Grosso. Dal nostro punto di vista naturalmente sì, però se dobbiamo confrontarlo con la situazione precedente, sicuramente è migliorativa. In ogni caso mi permetto di consigliare a chi volesse andare all'estero con un telefonino che naviga su internet di tenere ben sotto controllo il proprio telefonino e prima di partire verificare se il telefonino non abbia attiva quell'opzione che lo fa collegare a internet automaticamente, perché questa è una di quelle funzioni che sta al telefonino e non al gestore, che però può trasformarsi poi in un salasso nella propria, ecco, nel conto scioccante, appunto, come dicevamo prima. Allora, stanno arrivando tantissimi SMS da parte degli ascoltatori, speriamo che non ce li stiate inviando dall'estero, perché chissà quanto vi costano. Sto scherzando, naturalmente non è così. Un ascoltatore, per esempio, che è l'ultimo che ci è arrivato, ci chiede cosa significa tariffe uguali per tutta Europa, se che non sarà più possibile scegliere la propria tariffa, no, altro che, significa che la Commissione Europea appunto ha imposto un tetto massimo agli operatori oltre i quali non possono andare per il traffico telefonico. Detto questo, come dicevamo, si può certamente stabilire con il proprio operatore un piano tariffario personale, scegliere la propria tariffa, e questo è il discorso che facevamo all'inizio, ma le preciseremo ulteriormente i termini di questa questione, così come risponderemo anche a tutti gli altri che ci stanno chiamando. Tutti ovviamente stanno indicandoci le località della vacanza che hanno scelto per chiederci che tipo di trattamento avranno, se avranno delle sorprese. paese. Allora andiamo all'estero, se il nostro viaggio è circoscritto ad un paese dell'Unione Europea, sappiate che dal 1 luglio chiamare i cellulari costerà meno perché le tariffe in roaming sono calate per il terzo anno consecutivo, diminuiscono anche le tariffe dati, quindi anche il costo del traffico internet, l'applicazione delle tariffe è automatica, questo dobbiamo ricordarlo ai nostri ascoltatori, entra in vigore in tutta l'Unione senza necessità di contattare il proprio operatore. Però se con il proprio operatore si è già stabilito un piano tariffario migliore di quello indicato dall'Unione Europea, è chiaro che l'operatore lo può fare, per cui non è che chi ha già un piano più vantaggioso fa marcia indietro e aumenta le tariffe perché l'Unione Europea ne impone di nuove. Quindi in sostanza, dottor Del Grosso dell'Autorità Garante delle Comunicazioni, ho detto tutto correttamente? Sì, così. Perfetto, allora andiamo adesso, visto che queste sono regole che valgono per l'Unione Europea, vorrei sentire Riccardo da Palermo che invece ha la figlia in America e quindi ha, come dire, il salasso mensile. Riccardo, buongiorno. Buongiorno. Riccardo, guardi, niente da fare, devo richiamarla, dobbiamo richiamarla perché il collegamento è pessimo, pur essendo qua in Italia, neanche fosse veramente dall'altra parte del mondo, quindi allora vado a sentire Francesco da Padova e il suo quesito. Francesco, buongiorno. Sì, buongiorno. Niente, io avrei, diciamo, più che altro a spiegare come faccio io quando vado nei paesi dell'est che a ricevere una telefonata costa 1,50 euro e 2,50 euro al minuto, sia per chiamare che per ricevere. Sì. Io ho un smartphone Android, ho scaricato un programma sul market, si chiama Nimbus, può essere anche Skype, mi collego alla wireless dell'hotel oppure del ristorante, oppure là, a differenza che in Italia ci sono tante piazze che hanno le wireless libere. Ecco, questi programmi si può telefonare in Italia, per esempio con il bus telefono in Italia a 19 centesimi al minuto, a differenza di spendere 2 euro al minuto. Certo, Francesco, quindi una dotazione tecnologica, come dire, sicuramente molto più... No, io capisco, come dire, anche la sua documentazione, la sua preparazione sull'utilizzo migliore possibile della tecnologia nelle telecomunicazioni di cui si dispone. Poi però non per tutti magari si ha questa facilità e c'è chi ancora preferisce il cellulare tradizionale, quindi magari deve cercare di adottare la migliore tariffazione. Cosa dice l'Associazione dei Consumatori? Marco Bulfondi, Altro Consumo. Ma sì, è evidente che la tecnologia offre tante soluzioni, poi dipende anche per esempio dal tipo di utilizzo che si fa all'estero, cioè per quale ragione si va all'estero. Chi per esempio va all'estero in vacanza probabilmente non ha tante disponibilità di reti wireless o di possibilità di collegamento così facilitato, per cui da questo punto di vista la possibilità di collegarsi alla rete mobile diventa la soluzione naturalmente più facile e più semplice. Il fatto che ad oggi ci siano dei tetti di spesa che rendono più facile il collegamento telefonico dall'estero sicuramente è un aspetto estremamente positivo. Allora, ci potete dire qualcosa, ci chiede Marco, anche per gli SMS in roaming? Dottor Del Grosso, ci vuole aiutare lei su cosa stabilisce la nuova normativa dal 1 luglio? Diciamo allora che la direttiva che ha stabilito appunto queste tariffe di roaming ulteriormente agevolate ha anche stabilito il tetto del prezzo degli SMS in ambito comunitario, che è quindi di 11 centesimi più IVA, e un abbassamento che è intervenuto già da un po' di tempo, quindi dal 1 luglio 2009, e che appunto continuerà fino anche questo al 30 giugno 2012. Quindi dal punto di vista degli SMS il quadro è già piuttosto stabile, insomma, da vario tempo. Per chiamare da Malta in Italia quanto si spende, con che azienda? Paolo da Foce. Adesso Paolo non riusciamo a fare così un preventivo, dovrebbe farlo lei. Ci sono tanti comparatori anche di tariffe, noi ne parliamo spesso a Salvadanaio, che permettono di individuare la migliore offerta appunto sul mercato. Però magari Marco Bulfon, visto che voi, per come dire, fare le comparazioni di tariffe siete anche abbastanza bravi lì in Altro Consumo, ci può dare qualche suggerimento di comportamento, ammettendo appunto di dover andare a Malta così come in qualsiasi altro paese? Come facciamo a fare un utile confronto fra le offerte praticate dagli operatori delle telecomunicazioni appunto sul mercato? Dobbiamo avere un quadro chiaro intanto del consumo che facciamo, del consumo che faremo, del telefono? Dunque, anzitutto chiariamo che a Malta vigono le stesse regole che vigono per il resto dell'Unione Europea, quindi in qualunque località ci si rechi dell'Unione Europea le tariffe applicate sono identiche, quindi da questo punto di vista c'è un'assoluta omogeneità. Dopodiché sì, è opportuno avere un'idea di che tipo di traffico si farà, e nel caso in specie è opportuno non soltanto farsi un'idea delle telefonate che si faranno, ma anche delle telefonate che si riceveranno, nel senso che quando si telefona o comunque si utilizza il telefonino dall'estero si paga in parte anche il traffico in entrata. Quindi se ci, direi i parametri più importanti solitamente sono quanti sms si intendono inviare, se le telefonate che si effettuano sono più o meno brevi. Diciamo come ordine di grandezza, se le telefonate sono inferiori a un minuto, generalmente l'aspetto più importante è verificare se ci sono tariffe che sono senza scatto alla risposta. E infatti volevo introdurre anche questo tema, perché noi stiamo continuando a parlare, soffermandoci appunto sulla questione della riduzione delle tariffe dal 1 luglio, sulla conversazione telefonica. Quindi se si passa da 39 a 35 centesimi al minuto, la nuova disciplina appunto tariffaria ha portato a 35 centesimi al minuto la tariffazione per le conversazioni, lo scatto alla risposta non è più un problema, Buffon? No, beh, non è che non è più un problema, però se non ricordo male, l'Unione, adesso vado a memoria, per cui chiedo scusa se non magari mi ricordo. Magari faccio anche documentare al volo, dottor Del Grosso, esatto, faccio richiamare. Però se non ricordo male, non è previsto lo scatto alla risposta. Quindi non dovrebbe esserci uno scatto alla risposta. Certo è che in alcune circostanze si prevede comunque uno scatto anticipato della durata di un minuto, quindi che so, si paga un solo minuto. Questo dipende moltissimo dal tipo di tariffa che si applica. Per esempio, se una tariffa prevede un certo plafond giornaliero e poi dopo si paga un tot, naturalmente queste tariffe hanno tutte delle loro caratteristiche specifiche. Quindi lo dicevo nel senso di tenere in considerazione, quando si sceglie una tariffa scontata, quali sono le sue caratteristiche. Quindi da questo punto di vista tenere in considerazione quante telefonate si fanno. Se le telefonate sono brevi, privilegiare sempre delle tariffe che non prevedono lo scatto alla risposta, tenere in considerazione eventualmente se il telefonino lo si utilizza soprattutto per farsi contattare, perché in quel caso evidentemente sarà prevalente l'aspetto delle chiamate ricevute e quindi per confrontare una tariffa converrà verificare eventualmente qual è quella che mi fa spendere meno sulle chiamate. Quindi mamme e papà che state mandando i vostri ragazzi magari in qualche bella vacanza studio a Londra piuttosto che, non lo so, a Parigi, in qualche altra bella capitale europea, a Berlino o non so dove, insomma, visto che sicuramente le telefonate per capire come sta andando questa vacanza le farete voi dall'Italia, documentatevi meglio su questo aspetto appunto che ci ha ricordato adesso è ben specificato Marco Buffon di Altro Consumo. 800 24 00 24 numero verde per le vostre domande. Ecco, abbiamo recuperato Riccardo da Palermo, poi sentirò Del Grosso sulla questione della tariffa, del costo della telefonata, dello scatto alla risposta. Ecco, non mi veniva la questione. Riccardo da Palermo, buongiorno. Buongiorno, volevo un'informazione, volevo sapere, queste nuove tariffe che sono state introdotte dal 1 luglio valgono soltanto per l'Unione Europea o anche per extraeuropei? Per gli Stati Uniti, per esempio. La sua figlia negli Stati Uniti, lei è vero? No, la mia figlia che è negli Stati Uniti. Dove vive di però bello? Gli applicano un euro al minuto quando riceve e più di 2 euro quando chiama lei. Sono delle tariffe allucinanti. Infatti. Volevo sapere, è solo per l'Unione Europea queste nuove tariffe oppure valgono dappertutto? Riccardo, grazie. Dottor Del Grosso, sì, l'abbiamo specificato con molta chiarezza dall'inizio, qua parliamo di un regolamento europeo di eurotariffa. Ovviamente eurotariffa, volevo specificare appunto che si tratta di tariffe senza scatto alla risposta e con tariffazione al secondo, ovviamente poi declinata secondo le rispettive offerte da parte degli operatori. Mi corre l'obbligo, per quel che riguarda la comparazione tariffaria, di specificare che l'autorità ha accreditato un suo motore di calcolo, sì, un sito di comparazione tariffaria che quindi noi controlliamo sistematicamente per la correttezza delle informazioni che rende l'utenza, che è supermoney.eu, al quale appunto l'utenza si può tranquillamente rivolgere partendo dal proprio profilo di consumo, come ha detto anche Buffon, e quindi dalle dalla necessità che si ha di ricevere o di fare telefonate internazionali e quindi confrontare tranquillamente tutte le offerte degli operatori mobili. Fatto benissimo a ricordarcelo, dottor Del Grosso. Peraltro, un'altra curiosità mia che esula da questa trasmissione, però, siccome ne stanno sorgendo davvero tanti di questi comparatori di tariffe, sono sicuramente tutti professionalmente sempre più competenti, sempre più bravi anche proprio nel permettere di fare i confronti tariffari, visto che questo è il loro obiettivo. Come mai proprio questo si è accreditato la patente, diciamo, della GCOM? C'è una specifica procedura che è stata stabilita da una delibera dell'autorità, al quale ha avuto accesso appunto supermoney.eu, che dopo un'analisi molto approfondita da parte degli studi degli uffici dell'autorità ha ricevuto questo accreditamento per la bontà del confronto, la completezza, la correttezza, e quindi si può fregiare di avere il logo dell'autorità sul suo sito a dimostrazione della garanzia dei risultati che dà all'utenza. Anche altri motori di calcolo hanno fatto richiesta, ma non hanno superato l'esame. Allora, quindi sono stati rimandati, dovranno ripetere appunto l'esame davanti all'autorità garante delle comunicazioni. Ve ne voglio ricordare qualcun altro, magari comunque esplorarli un po' non potrebbe fare sicuramente male. SOS Tariffe piuttosto che bestoption.it sono quelli che mi ricordo adesso, perché ogni tanto gli uffici stampa ci chiamano per chiederci: ma perché non ne parlate? Lo faremo senz'altro al più presto, magari richiamando anche i signori di supermoney.eu. Allora, tra l'altro, dottor Del Grosso, aveva qualche indicazione da dare all'ascoltatore che invece ha la figlia in America, come poter gestire al meglio economicamente parlando il traffico telefonico con... Allora, l'utente che ovviamente ci ha illustrato che utilizza il VoIP praticamente per telefonare, è una cosa che magari per risparmio si può indicare anche per le telefonate cosiddette verso gli Stati Uniti, che sono in effetti tra le più costose. Quindi l'indicazione è utilizzare il VoIP per telefonate a lungo raggio, quanto invece magari per quel che riguarda il traffico dati, se poi ne parliamo più in là, perché magari nel corso della trasmissione, perché anche qui ci sarebbero delle importanti indicazioni. Ottimo. E nuove offerte, quindi tra l'altro, come diceva il servizio, il traffico dati è esploso nel corso degli ultimi 2 anni proprio per la diffusione degli smartphone che portano internet nella nostra mano. Allora, eccoci di nuovo in diretta. Volevo rafforzare peraltro le indicazioni all'ascoltatore, visto che oltre a mandare magari i figli in qualche capitale europea, magari qualcuno li manderà anche negli Stati Uniti. Marco Bulfone aveva altri suggerimenti da dare per non dissanguarsi dal punto di vista telefonico nel caso appunto si decidesse di fare delle vacanze oltreoceano. Beh, devo dire, in verità il consiglio migliore è quello di utilizzare internet quando si è addirittura oltreoceano, soprattutto se i propri figli rimangono per un certo periodo oltreoceano, perché naturalmente si può addirittura comunicare gratuitamente. Eventualmente, per quanto riguarda in particolare gli Stati Uniti, anche da questo punto di vista stanno comparendo sul mercato diverse offerte che sono molto interessanti e che spesso consentono di pagare, offrono lo stesso tipo di offerta che viene proposta per l'Europa. Questo vorrebbe dire che sostanzialmente la comunicazione cellulare mobile verso gli Stati Uniti verrebbe a costare super giù come quella in Europa. Se permette, vorrei puntualizzare la questione dello scatto alla risposta, perché non vorrei. Dunque, per quanto riguarda l'eurotariffa, quindi il massimale stabilito dall'Unione Europea, si tratta di un massimale che prevede la tariffazione al secondo senza scatto alla risposta, ma le offerte che sono sul mercato spesso prevedono uno scatto alla risposta. Magari possono essere più convenienti per il piano, la conversazione, quindi la tariffa al secondo e al minuto, ma possono vedere invece l'applicazione dello scatto alla risposta che va ad inficiare completamente tutto il risparmio dall'altra parte. Quindi conviene valutarle con molta attenzione le offerte che vengono proposte. Certo, ma infatti il dottor Del Grosso ha precisato che solamente nella nuova tariffazione appunto determinata dall'Unione Europea è prevista appunto senza scatto alla risposta. Che andiamo a sentire? Fabrizio da Milano, buongiorno. Buongiorno a lei. Sì. Ogni tanto ci sentiamo. Ah sì, ci ha chiamato altre volte, va bene. Altre volte. Senta, le telefono per questo. Io ho sentito il mio operatore, parlo della Francia. Sì. Dalla Francia all'Italia, diciamo l'accreditazione è a scatto e non a minuto. Mi dice sono 43 centesimi al minuto. Chiaramente se faccio un minuto e un secondo saranno il doppio, diciamo. Cosa vuol dire a scatto, Fabrizio? Io che faccio, se faccio un minuto sono 43 centesimi. Se ne faccio due sono 86. Sì, ho capito. Beh, quindi al minuto. Senza scatto la risposta, diciamo. Ok. E quindi diciamo è intanto superiore a, sensibilmente non solo alla nuova tariffazione dal 1 luglio, ma anche a quella che era già in vigore, perché era già a 39 centesimi, quindi questa compagnia viaggiava già su livelli superiori. E quindi, Fabrizio, il tema qual è? Mi scusi, te la farò per questo, perché qualche mese fa queste telefonate erano 49 centesimi, erano a 49 centesimi anziché 43. Ma è un operatore molto noto, Fabrizio, quello del questo. Allora, si appoggia a Vodafone, diciamo un commerciale, diciamo. Vabbè. Un operatore commerciale che si appoggia alla Vodafone. Lei quindi, ma lei abita stabilmente in Francia? No, io sono di Corbetta, ma a volte posso andare in Francia. Va bene. Quindi. Allora, grazie Fabrizio. Sentiamo il dottor Del Grosso. Dunque, qualche operatore, ma tra l'altro lui, ecco, mi pare di aver capito che si appoggia a questo francese, viaggia con tariffe superiori rispetto a quelle che abbiamo indicato. Dottor Del Grosso, com'è possibile? Ma sembra molto strano. Quello che però vorrei consigliare all'utente è sicuramente di segnalare all'autorità, anche quando questi piccoli operatori commerciali, che come ha detto lui si appoggiano poi alle reti, grandi, alle reti dei grandi, dei grandi operatori, magari violano qualche norma, come spesso ci capita poi, di cui non sono neanche a conoscenza. Quindi l'invito che gli faccio è ovviamente di compilare il modulo di segnalazione che è presente sul nostro sito e di indicare, ovviamente oltre all'importo maggiore che gli è stato magari addebitato in bolletta oppure sulla scheda prepagata, di indicarci appunto tutti i riferimenti dell'operatore, la tariffa e il piano tariffario a cui è aderito e ovviamente andremo a verificare. Stessa cosa per un altro ascoltatore, Berni, che ci scrive: il mio gestore mi fa pagare gli SMS a 15 centesimi compreso IVA, che faccio? Mi devo far rimborsare oppure facciamo una segnalazione, dottor Del Grosso? Dunque, se si tratta di SMS internazionali, direi di fare al più presto la segnalazione. Se sono solo nazionali, invece potrebbe essere che si viaggia. Su questo c'è il cosiddetto paradosso un po' dell'aerotariffa, dove alcuni costi in effetti sono superiori nel nostro paese rispetto alla cosiddetta eurotariffa, sul quale siamo intervenuti a più riprese, anche con una specifica delibera, la 326-10 CONS, per cercare appunto di mitigare questo cosiddetto paradosso. Direi comunque che insomma una segnalazione si può sempre fare, anzi è meglio sempre farla all'autorità attraverso i moduli che si trovano sul sito. Ottimo, diciamo. Grazie. Allora, intanto Francesco da Napoli ci segnala che, visto che si reca molto spesso negli Stati Uniti, lui ha comprato direttamente un telefono americano, compreso il traffico telefonico per sole linee fisse in Italia, il costo di $90, quindi circa una settantina di euro, e si può telefonare in Italia senza limiti. Francesco, grazie, magari daremo questa indicazione a questo signore che ha la figlia negli Stati Uniti, forse gli conviene appunto di più comprare là sia lo strumento che il traffico. Allora, andiamo, sento la domanda di Ivano dalla provincia di Milano e poi andiamo appunto al tema invece del traffico dati, quindi l'utilizzo di internet. Quanti megabyte intendete scaricare andando all'estero? Quanto intendete utilizzare il vostro smartphone collegandovi ad internet? Attenzione a quanto potete spendere. Ivano da Milano, buongiorno. Buongiorno, mi scuso intanto se dico qualche cosa già detto di banale. Ma ci mancherebbe altro, Ivano. In ritardo, per cui ho perso l'inizio della trasmissione, ma sensibile al discorso dei figli all'estero e sentendo quello che lei diceva a proposito del costo del traffico in entrata, mia figlia quando è via compra una SIM locale, sì. L'ha fatto negli Stati Uniti, l'ha fatto in Turchia, in questo modo il traffico in entrata viene completamente azzerato. E chiaramente poi il suo appuntamento si usa Skype e il PC, e se no, quando chiamo io, lei semplicemente risponde o mi fa uno squillo. Questa è un'indicazione che secondo me vale per qualunque paese extraeuropeo. Ivano, grazie per la sua indicazione, quindi un bravo consumatore. Voleva fare altre domande? Sì, un'ultima, no, volevo dare invece un'altra indicazione, perché mi ha veramente sconvolto, direi. Vengo da una vacanza nello Sri Lanka dove le tariffe normali viaggiano sui 5 dollari al minuto con qualunque tariffa italiana che io avessi su qualunque telefono. Ho comprato una SIM locale e ho trovato tariffe che hanno veramente dell'incredibile. Io riuscivo a parlare 4, 5, 6 minuti con a mezzo euro con l'Italia. Con 50 centesimi, sì. E senza che pagare nulla quando ricevevo le chiamate. Quindi in paesi di quel tipo l'indicazione è assolutamente comprare una SIM locale. 2,50 euro il costo della SIM e il traffico, non sono riuscito a consumare 14 euro. Ho capito. Grazie molte per i suoi suggerimenti. Dottor Del Grosso, che ne pensa dell'esperienza che abbiamo ascoltato? Ma sicuramente condivido, e condivido in particolare il traffico cosiddetto VoIP, che ovviamente è Skype per dirne una, ma per, come ho detto anche in precedenza, per le telefonate a lungo raggio, quindi Stati Uniti e altri paesi, magari c'è anche la possibilità di fare una videoconferenza completamente gratuita, se i due interlocutori hanno magari la DSL e il collegamento dati. Quindi questo è sicuramente il primo tramite da utilizzare. Allora, no, tra l'altro poi magari faccio fare un ultimo commento a Marco Bulfon per capire o non li ho trovate io, ma tanti suggerimenti nel indirizzare i propri consumatori nell'acquisto di SIM locali non ne ho trovati. Piuttosto si cerca di rendere più comparabile possibile l'offerta degli operatori domestici e rendere appunto più chiara possibile l'offerta praticata dagli operatori domestici, piuttosto appunto che suggerire quando andate in un posto all'estero prendetevi la SIM locale. Insomma, non le ho trovate io queste indicazioni di comportamento da parte delle associazioni dei consumatori, oppure non ne danno volentieri, ma non credo che sia così. Poi con Bulfon torno su questo aspetto. Però, dottore Del Grosso, visto che lei voleva esprimere le sue raccomandazioni anche sull'utilizzo di internet all'estero, adesso anche qui abbiamo avuto la diminuzione delle tariffe da 80 a 50 centesimi, quindi 30 centesimi secchi sono tanti per megabyte scaricato. Mediamente quanti megabyte utilizzano gli utenti italiani che girano il mondo? Ma insomma, è difficile fare una statistica, però sicuramente potrebbe essere una delle voci di spesa emergenti per quel che riguarda come d'altronde è nell'ambito del traffico nazionale, sicuramente anche in ambito internazionale. Quello che è importante è, al fine di tranquillizzare l'utenza che si reca all'estero, è il sistema di tutele che è stato posto in essere sia dalla direttiva ma anche dall'autorità a livello nazionale. Quindi ovviamente il tetto dei 50 euro, che è il massimo che si può così spendere se non se ne è fissato un altro con il proprio operatore, è un tetto che va a tranquillizzare e quindi a eliminare il pericolo di bill shock. Pericolo di bill shock che è stato recentemente anche eliminato dal traffico dati in Italia con questa appunto delibera, la 326, che è complementare al regolamento europeo e fissa anche in Italia un tetto di 50 euro per il traffico consumer e 150 per il traffico business. Quindi in sostanza si blocca la comunicazione quando si superasse questo tetto, l'operatore è obbligato ad interrompere qualsiasi tipo di comunicazione, non a far andare avanti appunto il traffico. Allora, ci manca un minuto prima dei saluti, rapidissimo. Luciano da Milano, buongiorno. Buongiorno. Telegrafico, grazie. Buongiorno, senta, io sentendo la trasmissione ho sentito che c'è questa tariffa europea a minuto di 35 centesimi, invece il mio operatore, io mi devo recare in Francia quest'estate, che è un operatore nazionale molto conosciuto, il primo diciamo, e fa pagare 42 centesimi al minuto invece. Mannaggia. Ha detto che la mia tariffazione è 42 centesimi, mentre il messaggio è giusto, 13 centesimi. Sì, infatti. Sì. La comunicazione via telefono normale è di 42 centesimi. Però anche l'SMS mi pare passato da 15 a 11. Dottor Del Grosso, dobbiamo rifare una segnalazione, ma questi 42 come arrivano? Ma più IVA? Bisognerebbe vedere come è conformato il piano tariffario e poi magari non so se si tratta della tariffa in roaming o della tariffa voce semplice, quindi bisognerebbe in questo caso, appunto, se non si è convinti di come si comporta il proprio operatore, è sempre meglio fare una segnalazione all'autorità che vaglierà attentamente la situazione e eventualmente l'ultima ratio, come dire, sanzionerà l'operatore. Anche perché ne prendono poche, accidenti. Marco Bulfon, l'ultima raccomandazione in 3 secondi. Sì, dunque, 35 più IVA fa 42. Ah, così eccolo come 11 qua. Più IVA fa eccolo 13. Là, eccolo là. Giusto per chiarezza. Eccoci qua, abbiamo ricomposto allora l'equivoco. Non riesco a farla intervenire di più, Buffon. Ci risentiamo magari nelle prossime settimane, non credo, perché Salvadanaio ha in programma altre cose per agosto. In ogni caso, state attenti, partite con la migliore informazione possibile prima delle vacanze, appunto per poter utilizzare al meglio il vostro telefono. Grazie per essere stati con noi, torniamo domani, buona giornata.